Quinto racconto. Non più. La piazza del mercato, grandissima, riboccava di gente. La folla si accalcava non solo nel suo vasto quadrilatero, addossandosi alle baracche dei saltimbanchi, alle tende ambulanti dei venditori di sorbetti, al piccolo carosello giallo e rosso, ma si addensava lungo il corso Garibaldi, verso l'anfiteatro e verso il tribunale. Straripava su molti balconi e su tutte le terrazze prospicienti nella piazza. Non erano soltanto i 20.000 abitanti di Santa Maria che avevano lasciato le loro case in quella sera di mezz'agosto per assistere al grande fuoco d'artificio in onore dell'Assunzione di Maria Vergine, ma anche dai villaggi e dalle città vicine erano accorsi per devozione e per curiosità. Nella folla minuta si mescolavano ai samaritani conciatori di cuoio, gli ortolani di San Nicola alla strada, i setaiuoli di San Leucio, i fabbricanti di torroni di Casapulla, gli agricoltori di Maddaloni e di Aversa, le pallide maceratrici delle canape che languiscono un'intera stagione sulle sponde dei laghi, sui balconi illuminati a palloncini colorati, la borghesia e l'aristocrazia samaritana facevano gli onori dell'Assunzione alla borghesia e all'aristocrazia di Caserta e di Capua. Sulla terrazzina del circolo militare, che aveva dei festoni di lanterne cinesi, Giorgio Lamarra, il bello e biondo tenente di artiglieria, sospiro delle romantiche fanciulle samaritane, faceva il chiasso con un gruppo di ufficiali di Nizza cavalleria venuti da Capua. Dal balconcino di sua zia Clementina Riccio, la brunetta languida e malinconica non cessava di guardare il terrazzino e Giorgio Lamarra. Dal balcone della sua comare, donna Peppina Cannavale, Paolina Gasbarra, la loschetta vivace e spiritosa, si piegava sullo sporto e rideva ad alta voce per farsi udire da Giorgio Lamarra. Da uno dei cinque balconi di Rosina Sticco, la novella sposa, riboccanti di luce e di persone, Grazia Orlando, la più bella creatura di Santa Maria, fingeva di discorrere con la sua cugina di Napoli, Caterina Borrelli, ma in realtà teneva d'occhio il terrazzino e Giorgio Lamarra. Nessuna di loro aveva uno sguardo per le 8 macchine pirotecniche allineate sul lato destro della piazza e per il castello, il pezzo finale, dove si doveva vedere il trionfo della Madonna assunta in cielo. Sul balcone grande del municipio, le due ragazze Rocca Tagliata, le figliuole del sindaco, due gentiline sottili e brune, si affaccendavano intorno alle tre sorelle Capitella, figliuole del sindaco di Caserta, venute nel loro equipaggio, scortate dal padre e dal fratello che doveva sposare Cristina Rocca Tagliata. Matrimonio che a tutte le ragazze coetanee di Cristina, diciottenni, pareva logico e che tutte le ragazze fra i 23 e i 25, fra cui Emma De Martino, dicevano irregolare. Cristina era troppo giovane, le tre sorelle Capitella avevano ciascheduna 150.000 lire di dote, le due Rocca Tagliata 100.000 lire. Clelia Mesolella, sposa di un anno, ne aveva portato 200.000. Felicetta De Clemente aveva trovato 500.000 in casa del marito, talché il balcone del municipio, il più ricco come doti passate, presenti e future, era l'oggetto di molti sospiri maschili e femminili. Le due spose, Clelia e Felicetta, scintillavano di gioielli. Anche il balcone del marchese Tarcagnota esponeva tre grandi doti di 150.000 lire nelle persone delle tre sorelle Tarcagnota. Ragazze uscite dal primo educandato di Napoli, aristocratiche, superbe. Ma le tre ragazze erano afflitte da una tale pinguedine enorme e crescente. Quella grossezza allora era così soffocante e ridicola che tutti i belli spiriti di Santa Maria se ne burlavano. Quella sera esse erano tutte orgogliose di poter ricevere la vecchia duchessa di San Demetrio che era venuta dal suo castello di Recale e il loro balcone brillava nobilmente di 12 lumi a moderatore. Ogni tanto, in quel chiarore, un fagotto si profilava, una guancia grossa, quasi gonfia, si delineava, una curva possente di spalla si arrotondava, un braccio corto, grosso, che pareva dover far schiantare la manica, si agitava. Era una delle ragazze Tarcagnota che si muoveva. Ma il gran movimento era sui cinque balconi di Rosina Sticco, la novella sposa. Rosina, la primogenita delle sette sorelle astianese, si era maritata la settimana prima con Vincenzo Sticco, negoziante ai cereali, gli aveva portato 50.000 lire. Il papà, Stianese, era molto ricco, ma aveva 7 figliuole da 12 a 25 anni. Stico era il più ricco del paese. Aveva la più bella casa con 5 balconi sulla piazza. L'aveva fatta mobiliare da un tappezziere di Napoli e Rosina faceva con un legittimo orgoglio per la prima volta gli onori della sua casa. Portava le grosse rosette di brillanti datele dal marito, 8 o 10 braccialetti pesanti e luccicanti, ed era soddisfatta di sé, del suo salone rosso e oro, della sua stanza da letto azzurra e bianca. Ella mostrava tutta questa roba a tutti e a tutte, senza celare la sua soddisfazione. La casa era piena di ragazze e di spose. Prima le 6 sorelle astianese in scalatura, brune, bionde, fulve, di tutti i gusti, di tutte le stature, sbucanti da tutte le parti, tanto che parevano 12, avente ognuna il suo pretendente in piazza, o su qualche balcone o alle finestre del circolo Garibaldi. Poi Grazia e Maria Orlando, con la cuginetta di Napoli, Caterina Borrelli. Poi Lucrezia Piccirillo Sticco, la cognata di Rosina, maritata a un proprietario di Casa Pulla. Poi Luisa Ciccarelli, la più brutta ragazza del paese, inebetita dalla sua bruttezza, con la bocca sempre un po' schiusa e le grosse mani penzoloni. Poi Carmela Barbaro, la giovane sposa del cancelliere, venuta da un villaggio albanese della Calabria, mezza orientale, mezza montanara, che era bruna bruna, fumava sempre e parlava pochissimo. E infine la grande amica di Rosina, la sua coetanea Emma De Martino, la pallidina, alta e gentile, un po' anemica, la ragazza sentimentale, dagli occhioni un po' bruni e dalla testina languente. Come arrivava gente, Rosina Sticco si faceva sempre più serena, affettuosa nella bonarietà naturale e pacata delle giovani spose. Come arrivava gente, ella chiamava suo marito con maggior dolcezza. «Vincenzino! Vincenzi!» Le ragazze, in su e in giù, dai balconi al salone, all'anticamera, alla stanza da letto, guardavano tutto curiosamente, con un sorriso enigmatico, leggermente turbato da quell'ambiente matrimoniale che era la realtà dei loro sogni. Certo, non vi erano 6 giovanotti come Vincenzino Sticco dentro Santa Maria, ma le 6 sorelle astianese erano sicure di maritarsi meglio della prima. Emilia sognava di stabilirsi a Napoli e lei era ambiziosa, audace, rinunziava alle rosette e ai braccialetti di brillanti, ma voleva andare a Napoli. Grazie a Orlando, che aveva per l'appunto 20.000 lire, la dote militare, pensava al suo bell'ufficiale biondo dalla sciabola scricchiolante, tanto più bello di Vincenzino Sticco. Maria Orlando, più calma, meno sognatrice, calcolava che avrebbe avuto di sua parte Cicillo Mosca, il primo dei 3 fratelli Mosca, che ogni tanto, nei caldi pomeriggi, veniva a passare sotto le sue finestre alla croce. Caterina Borrelli, troppo giovane ancora, aveva l'aria disinvolta e presuntuosa delle ragazze napoletane che fingono di burlarsi del matrimonio. A Luisa Ciccarelli, la stupidona, tastava le stoffe per sentire se erano di seta. Pensava se il merletto delle cortine si poteva imitare all'uncinetto. Leggeva i biglietti da visita giunti per le congratulazioni, incretinita, senza idee, senza sogni. Emma De Martino, la migliore amica, la coetanea di Rosina, la seguiva dappertutto dove l'andava, come trasognata. E quando Rosina, con la sua voce armonica e raddolcita, diceva «Vincenzino, dove sta Vincenzino?», Emma provava un'emozione come uno struggimento di tenerezza. A un tratto, un grande chiarore attirò ai balconi tutti e tutte, ma era un falso allarme. Al circolo militare accendevano dei fuochi di Bengala, Giorgio Lamarra ne teneva 2 a braccia tese ed era illuminato fantasticamente di rosso. Clementina Riccio, dal suo balcone, agitava il fazzoletto come per farsi vento. Paolina Gasbarra, la briosa loschetta, gridava «Bravo, bravo!» senza potersi più contenere. E Grazia Orlando era tutta commossa a vedere il suo bello ufficiale in tutta quella luce rossa come Fausto Mefistofele. A quel chiarore si vide bene che sui balconi del municipio si portavano in giro le granite. Le ragazze roccataglie andavano e venivano offrendole agli invitati, mentre, attirate dalla luce, credendo che il fuoco artificiale cominciasse, si erano financo schiuse le finestre di casa Crocco. Le due crocco, brune e scarne, tutte chincaglierie, tutte spilloni di acciaio e fibbie di plastica, si affacciarono, mostrando il loro volto arrabbiato di zitellone, ostinate nel desiderio del marito. Le due Caputo, amiche fedeli, si affacciarono anch'esse, pettinate e vestite alla moda di 15 anni prima, ma tutte tranquille, ridenti, sopportando pazientemente i 40 anni della loro disponibilità. E infine si affacciò donna Irene Moscarella, la zitellona preistorica, quella che tutti ricordano zitellona da un tempo immemorabile, la zitellona non più collerica né ridente, ma quietata, nell'apatia, nella quasi immobilità della vita. Emma De Martino era rimasta sul balcone, pensando, mentre due bande musicali, una a destra e l'altra a sinistra, suonavano ora la Marcia Reale, ora l'Inno di Garibaldi. Era felice, molto felice per Rosina, la sua amica, ma pensava che se Carluccio Scoppa, che studiava a Napoli l'avvocatura, non si fosse fatto bocciare in due materie, lei, Emma, si sarebbe maritata prima di Rosina. Carluccio era a Napoli a prepararsi per gli esami di riparazione. A novembre sarebbe riuscito ad avere la laurea e forse per l'altro agosto si sarebbero sposati. Che peccato dover perdere così un anno. Lei ne aveva già 25, è vero, e questo le dava come un pensiero latente di malinconia, come una punta di amarezza. Si sentiva pallida, smorta, sfiorita. Mentre i 25 anni di Rosina Sticco erano tutta una fioritura di rosei colori e di sorrisi. Con quanta grazia Rosina andava intorno, offrendo confetti e vino di Marsala, lieta dei suoi larghi vassoi d'argento, dei suoi bicchierini di Boemia, dei dolci che erano venuti da Napoli e del vino che Vincenzino aveva fatto venire dalla Sicilia. Se Carluccio avesse avuto miglior sorte agli esami, ora sarebbe lei, Emma, che regalerebbe alle sue amiche i confetti del matrimonio. E non volle mangiare quelli che Rosina le offrì. Una grande malinconia le era piombata sull'anima. Intanto uno sparo di mortaretti annunziò che lo spettacolo cominciava. Una delle macchine principiò ad ardere a tre colori, aggirandole roteanti e a razzi. Il popolo samaritano applaudì. La folla ondeggiò tutta per la soddisfazione. Emma si scosse, scrollò le spalle, cercò di liberarsi dalla malinconia. In fin dei conti non era la più infelice di tutte. Quelle sorelle astianese avevano, è vero, 50.000 lire di dote, ma erano sei, un reggimento, un corpo di esercito. Facevano sgomento ai giovanotti. Chissà se si sarebbero maritate. E le tre innamorate di Giorgio Lamarra erano tre sciocche. Né Clementina Riccio né Paolina Gasbarra avevano la dote militare e il padre di Grazia Orlando non l'avrebbe mai data a un ufficiale. E lui, Giorgio, le ingannava tutte e tre. Aveva un'innamorata a Firenze, tutti lo sapevano, non avrebbe sposata che quella. Ardevano allegramente, leggerando le tricolori, sprizzando scintille, mentre i contadini di Altifreda, delle Curti, di Centurano e di Cancello Arnone guardavano a bocca aperta. Ardevano i cuori delle ragazze astianese e delle tre innamorate di Don Giovanni, ma che restava? Un po' di fumo, una grande ombra, un barbaglio doloroso negli occhi. Ma subito un'altra macchina s'accese. Era una scappata di razzi che salivano altissimi nel cielo, si schiudevano lassù con una debole detonazione, come un fiore che si apre, e si dividevano in tante stelle di colori delicati. Le ragazze capitelle erano molto ricche, ma per questo nessuno osava ricercarle. Le loro pretensioni erano stravaganti. Nella provincia non vi era nessuno che potesse contentarle. Si sarebbero maritate le capitella. E anche la Rocca Tagliata, la minore, faceva male a maritarsi prima della maggiore, cioè di cattivo augurio. In provincia ci si bada bene. In quanto all'età Carcagnota, a malgrado dei loro quattrini, esse erano troppo grasse, non si potevano maritare. Luisa Ciccarelli era troppo brutta, troppo imbecille. A malgrado dei delicati razzi che si aprivano in cielo dolcemente in quella mite sera di agosto, a malgrado dell'estasi di quella folla istupidita dai chiarori, a malgrado dell'allegrezza di tutta quella gioventù maschile e femminile sparsa per i balconi, Emma si sentì inondata di amarezza. La vita per lei, per le altre, le parve un lungo cammino senza gioie, un duro cammino senza compensi e senza soccorsi. Gli è che sotto il grande chiarore giallo di una pioggia d'oro che zampillava come da una fontana di fuoco, le due finestre di casa Crocco facevano pompa della loro mostra di vecchie zitelle. Le due Crocco agitavano le teste lucide di pomata e infiocchettate, si curvavano per vedere se veramente nel salone da pranzo delle Tarcagnote era preparata una grande cena. Mostravano le dentiere ingiallite con una smorfia che doveva essere a parer loro un sorriso d'ironia. Le due Caputo, coi capelli abbassati in due falde sulle tempie, i busti lunghi e piatti, i grembiuli di seta nera, ammiravano almeno per la quarantesima volta la festa dell'Assunta. E sorridevano mitemente mentre donna Irene Moscarella, vestita di lana color pulce, coi radi capelli raccolti in rotoletti sulle tempie, serbava la sua faccia scialba e senza espressione, la sua aria indifferente di persona morta a tutte le cose umane. Emma vedeva queste cinque femmine tutte smorte o livide sotto la grande pioggia d'oro del fuoco di artificio. E le sembrava scorgere in quel gruppo tutta una visione dell'avvenire. Le pareva che lei e tutte le sue amiche dovessero invecchiare zitelle, diventare rabbiose e cattive come le due sorelle Crocco, placidamente rassegnate come le due sorelle Caputo, o indifferenti come donna Irene Moscarella. Ecco, forse a una di loro sarebbe morto il fidanzato, come a Chiara Caputo, 2 giorni prima del matrimonio. Ad un'altra sarebbe toccato di essere tradita come Marietta Caputo, qualcun'altra sarebbe rimasta zitella per la tremenda avarizia del padre come Margherita Crocco, qualcuna non si sarebbe maritata per un accesso temporaneo di misticismo come Vincenzella Crocco e un'altra, chissà, forse lei, Emma De Martino, sarebbe rimasta zitella non si sa come, non si sa perché, per capriccio della sorte, come donna Irene Moscarella. E fu tanta la forza dell'evocazione che ella si vide già arrivata a 55 anni, vestita di lana color pulce, coi capelli radi che non coprivano più il giallo della cute, con la faccia scialba e rugosa, dove nessuna impressione più si rifletteva in quel distacco egoistico e supremo di tutte le cose. Ma dopo aver applaudita la fontana di fuoco, si fece nella folla un grandissimo silenzio. L'ultimo pezzo cominciava. Era prima un grande arco di trionfo, tutto lampioncini colorati, che portava scritto nel frontone Viva Maria. Poi 4 pezzi di fuochi d'artificio in quadrilatero a mazzo di fiori, a scappate di razzi, a girandole e girandolini. Come l'arco fu tutto quanto illuminato, nel vano profondo, con la testa verso il cielo, con le bianche mani schiuse e distese, che pareva salutassero la terra. La statua della Madonna cominciò ad elevarsi. Saliva lenta, lenta, come librantesi, e i potenti argani con cui era tirata su non si vedevano. Era vestita con la tunica rossa, col manto azzurro, e sorrideva al cielo e dava l'addio alla terra. Le campane della cattedrale, di San Carlo, della Croce, di Sant'Antonio suonavano a gloria, ardevano i fuochi incandescenti, gittando fiamme, sprizzando scintille, vomitando stelle. Molti balconi avevano accesi i bengala. Nella piazza il popolo era inginocchiato, pregando, acclamando la bella mamma assunta in cielo. Nelle vostre mani, Vergine Santa, pregava Emma sul balcone, nelle vostre mani, io e tutte quante. 2. La puerpera appoggiava il capo e le spalle a un grande mucchio di cuscini, dalle foderette di tela finissime, tutte adornate di ricami. Le due mani bianchissime, esangui si allungavano sulla larga trina antica che formava la rimboccatura del lenzuolo e toccavano quasi il damasco azzurro della coperta. Ella portava una camiciuola di batista tutta spumosa di merletti, sui capelli bruni, ondulati, una cuffietta di gala e le dita, i polsi, le orecchie erano ornate di molte gemme. Ella poco si muoveva, poco parlava, un po' pallida ma beatamente sorridente. Ogni tanto socchiudeva gli occhi, come se si addormentasse. Dalla mattina la casa era piena di gente che andava e veniva e l'era stordita da tante domande, da tante congratulazioni. Alla fine, verso le 2, ella aveva dato un bacio al suo bambino che le avevano portato in abito da battesimo e tutti erano andati alla cattedrale. Ella Respirava, tranquilla, riposandosi, poiché fra poco l'andirivieni sarebbe ricominciato. Emma, seduta ai piedi del letto, le parlava sottovoce. Ella non aveva voluto andare in chiesa. «Rosì, perché chiamarlo Gaetano?» «Così ha voluto Vincenzino», fece la puerpera muovendo un solo dito per esprimere che non vi era da opporsi. «È un brutto nome». «Brutto, ma la creaturina è bella». «Tutti i figli tuoi sono belli», mormorò Emma. «Ah, questo è il più bello», disse la madre placidamente. «Quando avrai il quinto direi che quello è il più bello». «Già», acconsentì la puerpera sorridendo. Vi fu un momento di silenzio. Rosina Sticco odorava una ciocchetta di erba, l'erba cara alle donne partorienti. Emma passava leggermente le dita sul damasco della coperta come se lo carezzasse e gli occhioni bruni erano più che mai nuotanti nell'angore. Il pallore, di creatura anemica, si tingeva di un levissimo giallo ancora impercettibile. «Tua sorella Giannetta non è venuta da Caserta?» chiese Emma. «No, poverina, alla suocera malata. Maria mi ha telegrafato da Piedimonte e Costanza mi ha scritto da Verona». «Costanza ha due figliuoli?» «Due». «E Maria?» «Uno e uno Giannetta». «E tu quattro? La mamma tua è già 8 volte nonna». «8, ma ancora 3 figlie da maritare. Non dico per Olimpia e per Teresa, ma Assunta ha già 28 anni». «Mi fa pena, capirai». Un lieve rossore salì alla fronte di Emma. «Che importa?» mormorò costei. «Non ci è obbligo di maritarsi». «Oh, non lo dire, cara. Qualunque cattivo matrimonio va sempre meglio di nulla». «E perché?» «Per i figli, Emma», disse gravemente e dolcemente la madre felice. Un velo di lacrime tremolò per un minuto negli occhi di Emma. «I figli», disse lei. «Che ne farai di questi bei figliuoli?» «Per ora me li godo io, sono così piccolini, ma Vincenzino è pieno di ambizione per loro». «Parlate sempre di bimbi fra voi?» «Sempre». «E l'avvenire ti piace?» «Non è il mio che mi interessa, è il loro». «È vero», soggiunse Emma, e di nuovo tacquero. «Quanto tardano», mormorò la puerpera, «avranno fatto il giro largo o la mamma li avrà trattenuti?» «La madrina è Grazia?» «Sì, Grazia Orlando. E suo marito il padrino. Ti rammenti, Rosina? Pareva che impazzisse per Giorgio Lamarra, Grazia, e poi è guarita. Ha sposato l'avvocato Sant'Angelo. Ha fatto bene. A che amare un birbante come quello?» «Anche Clementina Riccio si è consolata e ha sposato suo cugino, lo zoppo. Che bella Costanza!» «A che servono questi amori così lunghi, Emma?» «Quando si vuol bene, chi si accorge del tempo?» «Con Vincenzino ci siamo sposati dopo 6 mesi di amore». «Ma di Vincenzino ce n'era uno solo, il tuo», e l'intonazione era fra dispettosa e umile. Una viva pietà si delineò sul volto della malata, ma non ebbe tempo di dire una dolce parola a Emma. Caterina Tarcagnota, maritata savarese, entrava enorme in un vestito di stoffa nera, con le guance rosse e lucide, con le braccia simili a colossali salsiccioni, e subito, con un sospiro, esclamò: «Oh, cara signora Sticco, a chi tanto, a chi niente!» «Avete il tempo, cara baronessa, ne farete 12. Possa passare un angelo e dire amen, ma io ci spero poco. Tutto dipende dalla complessione». «Così si dice, ma chi lo sa? La rocca tagliata così magra ne ha forse fatti?» E mentre si discorrevano così, altre signore sopraggiunsero per la visita di prammatica. Clelia Mesolella, con un vestito nuovo e un paio di nuovi orecchini, 2 grossi smeraldi, Felicetta De Clemente incinta di 5 mesi, Carmela Barbaro, a cui l'aria bassa di Santa Maria aveva illanguidito sempre più gli occhi orientali, Lucrezia Sticco Piccirillo, che era venuta apposta da Casapulla. Sedute in circolo attorno al letto, parlando a voce discreta, esse si intrattenevano di figliuoli, di gravidanza, di casi orrendi e di casi strani, di voglie, di odori, di chirurghi e di levatrici. Tutte mostravano il più grande interesse a sapere da Rosina com'era andata la cosa, ed ella rifaceva il breve racconto. Non aveva sofferto punto, tutto benissimo, il bel maschio aveva fretta di nascere. E le ascoltanti scrollavano il capo soddisfatte, sorridenti, e l'una dopo l'altra, rinviandosi delicatamente il discorso, narravano ognuna il loro piccolo aneddoto di maternità. E intanto le altre prestavano un'attenzione cortesissima, seguendo tutte le peripezie, facendo qualche breve esclamazione. A qualche asserzione tutte facevano coro, oppure qualcuna contraddiceva e un'amabile discussione sorgeva. L'ambiente si empiva di queste voci intenerite, di questi discorsi dolci e gravi, in apparenza frivoli, ma in cui si riassume tutta la vita femminile. Queste spose, che erano già madri, o dovevano esserlo, o desideravano profondamente di diventarlo, si lasciavano andare a tutto l'affettuoso che sgorgava naturale dal cuore aperto. Rosina ascoltava già rosea, approvando col capo o negando con un cenno della mano. Ella, la madre felice, ritta, immobile, appoggiata alla spalliera del letto. Emma, la sola fanciulla in quella stanza, ascoltava. Tutta quella maternità che fluiva nelle parole, nei sorrisi, nelle voci, negli sguardi, in certe intonazioni, tutta quell'onda lietificante di amore arrivava sino a lei, penetrandole nell'anima. Ella beveva quasi tutta quella dolcezza e nello spasimo di quell'impressione troppo acuta il viso pallido diventava cereo e i grandi occhi languidi si facevano più tristi, più trasognati che mai. Dalla strada salì un rumore sordo di ruote. La puerpera si distrasse, chinò le palpebre, restò come assorbita. Le signore tacquero aspettando. Una viva scampanellata risuonò per tutta la casa. Il volto della puerpera si tramutò e in anticamera sorse un vocio intenerito di serve e di familiari. «È tornato! È tornato! San Gaetano lo benedica! Cresci, santo! Cresci, santo!» Il piccolo essere si avanzava, portato solennemente sulle braccia di Grazia Sant'Angelo Orlando. Il lungo abito bianco da battesimo, tutto merletti, tutto ricami, pendeva da un lato. La testina si appoggiava sopra un cuscino, tutto a merletti. La faccia, un po' rossa dalla pelle delicata, si incorniciava fra la ricciatura di una cuffietta di gala. Gli occhietti aperti avevano lo sguardo serio serio dei neonati. La bocca si schiudeva ogni tanto con quel moto adorabile degli uccelletti che vogliono beccare e una manuccia piccolina piccolina agitava lievemente le dita, come se già il neonato pensasse dentro di sé. Grazie a Orlando Sant'Angelo, con un vestito venuto apposta da Napoli, di broccato, con un cappello scintillante di perline, tutta dignitosa, attentissima, tendeva le braccia portando il piccolo come sopra un vassoio. Dietro di lei la levatrice, donna Mimma Scaletta, sfoggiava un abito di seta verde pisello, uno scialle di crespo bianco, un cappello nero carico di rose. Uno spillo di mosaico che rappresentava il Colosseo di Roma e aveva la grassezza tradizionale di tutte le levatrici, l'aria di indulgenza bonaria, la gravità della persona importante. Venivano dopo Vincenzino Sticco, il padre Fortunato, e Cicillo Sant'Angelo, il compare, in marsina e cravatta bianca. E tutta la processione delle vecchie zie, la signora Astianese con le tre figliuole, ancora zitelle, Emma, Ferdinando e Carluccio, i tre figliuoli di Rosina. Un grande cerchio di persone ritte si formò attorno al letto e in quel vuoto. Grazia Sant'Angelo si avvicinò alla puerpera, con voce un po' tremante, offrendole il bambino, le disse: «Comare mia, ti riporto il piccolo Cristiano». La madre prese il piccolo Cristiano nelle braccia, si chinò su lui e lo baciò a lungo.